piano. Di Enrico Ruggeri. È molto difficile dire di se stessi o degli altri quello è stato fortunato, quello è stato sfortunato. Io per esempio su di me non vi saprei dire se mi ritengo una persona fortunata o sfortunata, al di là della fortuna di essere nato in un bel paese eccetera eccetera, al di là di quelle cose lì. Però nella vita ci sono circostanze fortuite che possono mutare il tuo destino nel bene e nel male, e magari non te ne accorgi subito e poi tutto si ribalta strada facendo. E per esempio adesso parliamo di una persona che ha avuto certo la fortuna di trovarsi nella band più famosa del mondo, è una persona dotatissima, però è anche vero che le cose non sono andate sempre perfettamente per questo signore è George Harrison, il terzo Beatle. Lennon McCartney, e però dietro c'era anche una grande musicalità, un grande cervello e un grande spirito, era George Harrison. E poi c'era Ringo Starr, del quale un giorno o l'altro parleremo. George era il più giovane tra i quattro di Liverpool, per anni aveva dovuto sopportare un atteggiamento paternalistico dei suoi compagni, che accettavano a fatica i suoi suggerimenti e le sue proposte. Lui era il bambino. Quando alla fine degli anni 60 i Beatles andarono a Amburgo, lui era minorenne, anzi dovettero tornare proprio perché George era minorenne. Eppure George Harrison non ha mai smesso di produrre grandi capolavori e di mettere a segno tantissimi progetti. Oggi non so se avrei scritto molte più canzoni o canzoni migliori se non ci fossero stati John e Paul con noi, e probabilmente non avrei neanche pensato di scrivere canzoni senza di loro. Ma è stato duro perché non volevo scrivere. Cioè, ho scritto tantissime canzoni che ho buttato via appena finito di scrivere, perché quando finalmente sarei riuscito a incidere una delle mie, volevo che valesse da sola, senza che dovessi dare il merito a John e Paul. Stiamo parlando di grandi canzoni meravigliose come Something, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps e tante altre. E appena i Beatles si separano, le sue doti di grande artista si manifestano in maniera autonoma. Forse lui è quello che più di tutti gli altri è riuscito a mettere a segno grandi progetti, è stato musicista, produttore, organizzatore di eventi, ha saputo aggiungere alla sua vita una fortissima dimensione spirituale per cercare un appagamento che andasse oltre quel successo materiale che aveva travolto lui e tutti i Beatles, una dimensione che forse ha ereditato dalla nascita. Dicono che il bambino sia influenzato da molti fattori già da quando è nella pancia della madre, e la madre di George Harrison, Louise Harrison, era una che ascoltava musica, però aveva questa stranezza. Quando rimane incinta del suo quartogenito, dopo i primi tre figli, Louise, Harry e Peter, lei ascolta spesso Radio India. L'India allora era parte dell'impero britannico, l'atmosfera in quegli anni era cupa, c'erano i bombardamenti tedeschi. Siamo nel 42, nel 43 quando nascerà George. Ma Louise Harrison è una donna piena di vita, di gioia, vuole contrastare questa cupezza. È cattolica ma ha una vita interiore molto pronunciata. I programmi di Radio India l'attraggono, cosa bizzarra per una casalinga inglese cattolica e piccolo borghese. Bene, Louise sente che tutti quegli strumenti, le tablas, il sitar, portano pace e serenità nel suo animo, e così spera che lo stesso accada nell'animo del bambino che sta aspettando. Il 25 febbraio del 43 entra nella storia del mondo il piccolo George Harrison. La madre si accorge subito che quel bambino è speciale, è tranquillo, è introverso, però è dotatissimo, ha un amore enorme per la musica, in particolare per la chitarra, e la madre lo asseconda. Quando è bambino gli regala, l'ha comprata usata per 3 sterline, gli regala la sua prima chitarra. È l'inizio di una grande passione. George comincia a passare giornate interminabili a casa a provare su quella chitarra. In quegli anni la famiglia Harrison, come molte famiglie inglesi in quel periodo, vive in una casa col bagno esterno, con solo una stufa a carbone per riscaldare tutta la casa. Però una famiglia allegra, serena. Quando George ha 6 anni, finalmente gli Harrison si trasferiscono in una casa popolare più confortevole. il ragazzino sta diventando bravo con la chitarra e allora mette su una piccola band col fratello Peter. Suonano lo skiffle, che è una specie di, diciamo, antenato del rock and roll, andava in voga nei primi anni 50. La band si chiama The Rebels, anche se George in realtà non è un ribelle, o almeno non ancora, o almeno lo è alla sua maniera, cioè all'inglese, quietamente. Certo, ha il giubbotto di pelle, a scuola non è il primo della classe, ma non è uno che dà preoccupazioni in casa, soltanto che sui libri magari lui preferisce disegnare chitarre invece di sottolineare le date importanti, non so, della storia dell'Inghilterra. Cioè non studia, pensa alla chitarra. At school I was a very bad pupil. A scuola ero un pessimo studente, anzi forse ero uno dei peggiori studenti della scuola, ma l'ho capito solo ora. A quel tempo mi interessava molto di più farmi una bella risata e tutto il resto non aveva un gran senso per me. L'unica cosa che mi piaceva veramente era l'arte. Il ragazzino George Harrison, come tanti ragazzini di quel periodo e di quella zona, deve prendere l'autobus per tornare a casa. Bene, su quell'autobus un giorno incontra un ragazzo, si mettono a parlare. Questo ragazzo ha in comune con George la passione per la musica, si chiama Paul McCartney. Un giorno questo Paul gli propone di andare a suonare la chitarra con lui e un suo amico, un certo John Lennon. It's been a hard day's night. Hanno una band questi ragazzi, si chiamano Quarrymen, e John Lennon, però, che ha 3 anni più di George, non crede che questo ragazzo possa suonare la chitarra principale nella sua band. E invece McCartney insiste, guarda che è forte anche se è piccolo, e alla fine McCartney convince John Lennon. Insomma, George si unisce al gruppo, lui ha solo 15 anni, da quel momento i tre non si separeranno più, almeno fino al 1970. If I hadn't been, se non fossi stato un chitarrista, non so cosa ne sarebbe stato di me. Non venivo da una famiglia ricca, ho fatto l'elettricista per circa 6 mesi quando ho lasciato la scuola a Liverpool, e prima ancora l'apprendista elettricista, ma nella mia testa è sempre stato solo un lavoro temporaneo fra la scuola e il riuscire a diventare un musicista professionista. Sta per nascere una delle grandi storie della musica, la più grande storia della musica del Novecento, la storia dei Beatles, della quale noi abbiamo già parlato più volte, di Stuart Sutcliffe per esempio, che era il ragazzo, il quinto Beatle che morì giovanissimo, del cambio di batteristi, Pete Best prima e poi Ringo Starr. Insomma, noi oggi racconteremo la storia di George Harrison, una storia che ovviamente è a cavallo di eventi ai quali abbiamo già accennato, cioè la Beatlemania. Ricordiamo una cosa: George, quando esplodono i Beatles, non ha ancora 20 anni. Quello che succede lo sapete, quindi chiunque avrebbe perso il senno. Bene, lui riesce nell'impresa di non farsi travolgere dal successo dei Beatles. Non sarà facile, sarà un percorso molto complicato per George Harrison, che in qualche modo troverà se stesso proprio attraverso i Beatles e oltre i Beatles. Immagino che fra tutti gli altri io sono quello tranquillo, forse perché mi sono stufato prima degli altri di tutte queste domande come quale colore ti piace, sai? Tutte queste stupide domande poco interessanti. Credo che ormai tutti i nostri fan sanno benissimo di che colore sono i nostri occhi e che cosa beviamo a colazione e cose così. Lo sapete, i Beatles conquistano il pianeta, e per conquistare il pianeta bisogna andare in America, quindi ci fu il primo grandissimo tour in America, grandissimo nel senso che ebbe un risalto clamoroso. Poi ci torneranno in America e poi cominceranno a fare dei film. Per esempio, la casa discografica commissiona un film al grande regista Richard Lester, un film che si chiamerà A Hard Day's Night, proprio come il disco, insomma un documentario nato soprattutto per supportare l'uscita di questo album. Per George è un film doppiamente importante, perché qui incontrerà quella che diventerà la sua prima moglie. È una modella, una piccola parte, la potete vedere in una scena sul treno, si chiama Patty Boyd, è amore a prima vista. Appena la conosce, lui le chiede di sposarlo, la ragazza è fidanzata, lui non demorde, dopo 18 mesi saranno marito e moglie. Il 1966, lei ha 21 anni, lui deve ancora compierne 23. Ho conosciuto George quando avevo 19 anni. Dopo 2 anni avevamo una bella casa che abbiamo decorato insieme e sembrava una cosa naturale sposarsi. George era la prima persona di cui mi sono innamorata. Lo sentivo quasi come un fratello. Ho 3 fratelli e con loro mi sono sempre trovata a mio agio. Ci siamo sempre divertiti molto. Con lui pensavo di avere la vita familiare ideale, ma non ho potuto avere figli. E i due vivono una vita bellissima, siamo nel pieno della swing in London, loro sono belli e giovani, lui è un Beatle, frequentano giri e i giri migliori, quelli più divertenti. Poi nel 66 arriverà un altro cambiamento per George, un cambiamento che non coinvolgerà solo lui, ma tutti i Beatles. È una specie di spartiacque che ebbe un impatto fortissimo sulla musica dei Beatles, perché dalle canzoni orecchiabili, diciamo così, dei primi anni 60, i Beatles cominceranno a entrare in una fase di sperimentazione, interromperanno la loro carriera dal vivo, decideranno che non hanno più voglia di esibirsi per un pubblico urlante che non ascolta nulla delle loro esibizioni, si concentreranno su album che segneranno la storia. Un grande cambiamento avvenne nel 1966, soprattutto per John e me. Una sera eravamo a cena con un dentista e lui mise dell'LSD nel nostro caffè. La gente che l'ha preso sa di cosa sto parlando, mentre chi non l'ha mai preso non può capire, perché ti trasforma. Dopo la prima volta non ne avevo più bisogno. Questa è la cosa strana dell'LSD, non ne hai bisogno una seconda volta. Davvero l'ha preso solo una volta? Oh no, l'ho preso molte altre volte. Il successo dei Beatles va di pari passo con una certa sregolatezza di fondo, arrivano le droghe, soprattutto l'LSD, che in qualche modo era la droga in quegli anni, diciamo, che si diceva allargasse la percezione e quindi magari ti aiutava a scrivere canzoni. Certo, non è che bastasse prendere l'LSD per scrivere dei capolavori, dovevi anche essere uno dei Beatles. Comunque, di quella prima sera Harrison racconta che aveva una sensazione di grande benessere, sentivo che c'era un dio e che lo potevo vedere in ogni stelo di erba. Se ne è parlato molto in quegli anni, insomma, dell'allargamento della propria sensibilità grazie all'LSD. Comunque sta di fatto che arriveranno di lì a poco gli album più sperimentali, ma anche più validi intrinsecamente, dei Beatles. Dopo Revolver arriverà Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e poi Abbey Road, e poi il doppio bianco, insomma sono anni di grandi evoluzioni. Il falco e il gabbiano. Raramente la storia ha prodotto un ingranaggio così perfetto e complementare come i Beatles. Ma i Beatles non sono stati solo l'incontro tra John Lennon e Paul McCartney, perché c'era un altro grande genio all'interno dei Beatles. C'era anche la simpatia e il suono di batteria inconfondibile di Ringo Starr, ma c'era un altro genio, ed è la persona della quale stiamo parlando oggi, è George Harrison, il Beatle più tranquillo, quello più portato a interiorizzare, insomma un Beatle che trova la sua strada in una maniera anomala. Quando ero piccolo non avevo altre ambizioni che suonare la chitarra ed essere in una band di rock and roll. E non sono di certo il tipo a cui piace essere davanti agli altri con il vestito bianco. E nei Beatles ero quello che restava tranquillo sul retro, lasciando che fossero gli altri a stare davanti. Insomma, George è diverso dagli altri tre. In qualche modo, se Paul era il genio, John la testa e Ringo il ritmo, George era l'anima, e in effetti la sua dimensione spirituale è stata la cerniera attorno alla quale lui ha fissato i cardini della sua esistenza. Dal 65 in avanti i Beatles cominciano a evolversi. Di lì a poco arriverà la decisione di non fare concerti dal vivo, diventano dei grandi sperimentatori in sala di incisione, e George Harrison è uno dei motori di questa voglia di ribaltare le regole del gioco. E per esempio c'è un momento nel quale Harrison conosce un musicista, si chiama Ravi Shankar, suona il sitar, e allora anche lui si compra un sitar e comincia a studiare proprio con Shankar, e comincia a introdurre questo strumento per esempio in Norwegian Wood, l'album Rubber Soul. Insomma, il sitar si fa strada all'interno della produzione dei Beatles e soprattutto all'interno delle canzoni di George Harrison, e piano piano il peso specifico all'interno del gruppo di George Harrison comincia a cambiare. È stato difficile per lui emergere, far sentire la sua voce, però le cose stanno cambiando. Ce lo spiega anche Philip Norman, che è l'autore di un bellissimo libro che io ho letto almeno 3 volte, un libro sui Beatles che si chiama Shout. Harrison era quello che beneficiò più di tutti del periodo mistico indiano del gruppo e della loro ricerca di espansione mentale attraverso la psichedelia, perché gli diede potere. Nel momento in cui in studio di registrazione Harrison prese in mano il sitar, divenne importante. Fino a quel momento George Martin, il produttore dei Beatles, era stato terribile con lui. Aveva l'abitudine di dirgli: ecco le note che devi suonare, adesso te le suono sul pianoforte e poi le ripeti. Era il più infelice dei Beatles, era il perdente. Ma l'evoluzione di George è anche un'evoluzione interiore, lui ha un'esigenza molto più profonda, e più i Beatles diventano una multinazionale globale, e più lui sente che ha bisogno di trovare all'interno della sua anima delle risposte, e queste risposte le va a cercare in India attraverso un personaggio del quale abbiamo peraltro già parlato, il mitico Maharishi, un guru, un pensatore, per alcuni un cialtrone, per altri uno che riusciva a allargare le coscienze. Bene, George Harrison trascina i Beatles in questa avventura, si va in India anche con le mogli. Più di ogni cosa George voleva essere più spirituale, ma non poteva per via della vita che faceva. Era amorevole e gentile e dolce, perché questa era la sua natura, ma era anche arrabbiato per la frustrazione che provava. Sentiva che c'era qualcos'altro, ma non riusciva ad arrivarci per davvero, perché c'era qualcosa di troppo terreno che lo tratteneva, e di questo ne era cosciente. E George Harrison scrive canzoni, e sono canzoni meravigliose, magari poche per ogni album dei Beatles, ma rimangono nella storia. Per esempio, nel 1968 George scrive quella che Frank Sinatra definisce la più bella canzone d'amore mai scritta, e infatti la canta anche Frank Sinatra. È una canzone dedicata alla moglie, si chiama Something, comincia così: qualcosa nel modo in cui lei si muove mi attrae più di ogni altro amore. Avevo un momento libero mentre Paul stava facendo qualche sovraincisione, così me ne andai in una stanza vuota e iniziai a scrivere. Questo è tutto quello che feci, eccetto per la sezione mediana, che richiese un po' più di tempo. Non finì sul White Album perché avevamo già finito le altre tracce. In quel periodo arrivano altri capolavori come Here Comes the Sun, come il mio preferito che è While My Guitar Gently Weeps, dove c'è una solo di Eric Clapton. Eric Clapton rimane forse l'amico più caro che ha mai avuto George Harrison, un'amicizia, una comunione molto forte, un'amicizia che resterà negli anni e resisterà anche al fatto che a un certo punto Patty, la moglie di George Harrison, si innamora di Eric Clapton, che sposa dopo il divorzio avuto da George. Forse George Harrison in quel periodo invidia a Clapton la libertà che lui ha. È vero che anche Clapton non è un solista, perché prima nei Cream e poi nei Blind Faith, però in qualche modo regge i fili delle band nelle quali suona, mentre George Harrison fa un po' più fatica, anche perché si confronta con menti come McCartney e John Lennon. Il falco e il gabbiano. Siamo alla fine degli anni 60, la parabola dei Beatles sta per concludersi a favore di molte carriere soliste, 4 carriere soliste, e prima della separazione escono ancora album come il mitico doppio album bianco, e poi uscirà Let It Be quando i Beatles hanno già il loro destino segnato. E però per Harrison sono anni molto prolifici, arriva anche Here Comes the Sun, che diventa forse una delle canzoni più conosciute dei Beatles. Scrissi Here Comes the Sun nel momento in cui la Apple stava diventando come la scuola, dove dovevamo andare, diventare uomini d'affari e firmare questo e firmare quello. Comunque sembrava che l'inverno in Inghilterra continuasse per sempre e che ci meritassimo l'arrivo della primavera. Così, un giorno decisi di mollare l'Apple e andai a casa di Eric Clapton. Il sollievo di non dover per una volta incontrare i commercialisti fu meraviglioso. e iniziai a camminare nel giardino con una delle chitarre acustiche di Eric e scrissi Here Comes the Sun. Lo scioglimento annunciato dei Beatles genererà 4 carriere molto felici. George Harrison forse è tra i più lesti, tra quelli che elaborano il lutto prima all'interno dei Beatles, e scriverà quasi subito una canzone che si dice addirittura fosse stata scritta prima dello scioglimento dei Beatles. Si chiama My Sweet Lord. Passerà dei guai per un'accusa di plagio di una vecchia canzone delle Chiffons, ma comunque rimane una canzone che segnerà una delle tante rinascite e ripartenze di George Harrison. E va subito benissimo un album triplo di George Harrison che contiene anche My Sweet Lord, con un titolo molto allusivo, All Things Must Pass, tutto deve passare. E nel frattempo c'è un'altra spaccatura nel post Beatles, che mentre Ringo Starr e Paul McCartney, soprattutto Sir Paul McCartney, si occupano di scrivere grandi canzoni, George e John intraprendono anche, come dire, battaglie di tipo sociale. John Lennon assieme a Yoko Ono parla soprattutto di pace e George Harrison organizza il primo grande mega concerto di beneficenza della storia, perché si occupa del Bangladesh, che è una regione ovviamente che a lui era molto cara, e raccoglie i migliori nomi della musica del momento: Bob Dylan, naturalmente il suo amico Eric Clapton, Ringo e poi Ravi Shankar, che è l'ideatore del concerto assieme a Harrison. Nel 71 il Bangladesh era devastato da una terribile guerra di indipendenza dal Pakistan, e Ravi Shankar va a parlare con George Harrison per cercare di sensibilizzarlo sul problema. Ero in uno stato di grande tristezza dopo aver letto tutte quelle notizie e ho detto: George, questa è la situazione, so che non ti riguarda, so che non ti puoi identificare. Ma mentre parlavo a George, lui si sentì profondamente commosso e disse: sì, credo di poter fare qualcosa. Il Madison Square Garden di New York è pieno, vengono raccolti $250,000 che George Harrison versa all'UNICEF, e questo concerto diventa intanto un simbolo di pace e di armonia, ma soprattutto diventa un precedente che sarà molto importante per i grandi concerti benefici degli anni 70 e 80. E tutti i 4 Beatles in qualche modo passano la loro vita cercando nuove collaborazioni, forse in qualche modo per, come dire, sopperire alla carenza affettiva di avere sciolto la band più famosa di tutti i tempi. E George Harrison è molto attivo in questo senso e a un certo punto dà vita a una band particolare, perché è fatta da Bob Dylan, da Ray Orbison, da Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra e da Tom Petty. Quindi 5 amici che scrivono canzoni per il piacere di farlo, anche lì creano un precedente che verrà poi imitato da molti anche in Italia. Chiamano la band Traveling Wilburys e fanno 2 meravigliosi album dove dimostrano che le grandi individualità possono essere anche asservite a una bellissima causa comune. Ma torniamo indietro, torniamo all'inizio degli anni 80, che si aprono nel peggiore dei modi per i Beatles, ma per tutta la musica mondiale, perché nel dicembre dell'80 Mark Chapman, lo sapete, ne abbiamo parlato, uccide John Lennon. È un trauma per i fan di John Lennon, dei Beatles, per i fan della musica. In qualche modo viene meno quella sensazione di inviolabilità che avevano gli artisti, non a caso 2 anni prima dell'assassinio i Decibel avevano scritto una canzone che si chiamava Superstar, dove indicavano una possibilità terribile che purtroppo poi si è realizzata. A molta gente piace pensare: va bene, uno dei tuoi migliori amici è stato assassinato e quindi sicuramente ti sentirai molto nervoso e penserai che qualcuno vorrà assassinare anche te. Ecco, mi piace essere prudente, ma non è che adesso cammini temendo per la mia vita, e non credo che a nessuno interessi uccidermi. Ma quale sarebbe lo scopo di uccidermi? Ma in realtà i fatti quasi lo smentiscono, perché alla vigilia del Capodanno del 2000 un uomo, uno squilibrato, Michael Abrams, si introduce a casa Harrison, e quando George sente dei rumori e scende a controllare, l'uomo lo pugnala più volte. C'era questo uomo che continuava a gridare: «Vieni giù, vieni giù! Cosa vuoi? Lo sai cosa voglio?» Era terribile. Sembrava che parlasse con una voce che arrivava dall'inferno. E all'improvviso era sotto alle scale, in pieno stato psicotico, e brandiva questo coltello. Era giovane e alto, e improvvisamente lui è sopra George, che cercava di ucciderlo. Olivia, la moglie, la seconda moglie di George Harrison, riesce a colpire il malintenzionato e George Harrison ha subito una quarantina di coltellate e verrà portato in ospedale. In realtà lui era già sfuggito alla morte nel 97, aveva un cancro alla gola che aveva trattato con la chemioterapia. Poi nel 2001 gli viene rimossa una massa su un polmone, poi viene ricoverato in Svizzera per un tumore al cervello. Insomma, il suo fisico ha deciso di non dargli tregua. Quando lo va a trovare Ringo Starr, che in quel momento ha una figlia ricoverata in America, anche lei per un'operazione al cervello, con il solito stile pacato e generoso, Harrison gli chiede se vuole che lui lo accompagni e stia al suo fianco nel viaggio in America, un viaggio che George Harrison ovviamente non poteva fare. C'è un video su YouTube in cui Ringo racconta in lacrime l'episodio. Poi il 29 novembre del 2001, a 58 anni, George Harrison muore, o come preferirebbe che noi dicessimo, dà inizio a una nuova trasformazione, a una nuova fase, entra in un'altra dimensione. Quando ti capita qualcosa fisicamente, allora inizi a pensare che potresti morire. Quindi, se dovessi morire ora, cosa penserei? Cosa mi perderei se dovessi lasciare il mio corpo nello spazio di un'ora? Cos'è che mi perderei? Penso, certo, ho un figlio e devo esserci per lui il più a lungo possibile. Ma a parte questo, non riesco a pensare a molte altre ragioni per restare qui. Non solo una storia di genialità, ma una storia di ricerca di se stessi e di tante risposte. Questo e tanto altro è stata la vita di George Harrison. Se volete che noi si parli di qualcosa che voi avete in mente, non dovete far altro che scrivere al falcoilgabbiano@radio24.it, visitare la nostra pagina, venirci a trovare sui miei, sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.